avendo una tensione più alta del normale. Sì, ti è arrivata la tensione con l'alimentatore direttamente dopo la tensione raddrizzata, ti è arrivata diretta senza i filtri finali praticamente di stabilizzazione della tensione, ecco qua. Sì, sì, infatti la stessa cosa che ha detto Vittorio, ma non ho rischiato il giorno non c'è niente. Infatti l'ha cambiato una resistenza, un diodo, un condensatore e altre cazzate. Adesso mi sta chiamando mia moglie. E io cosa ti ho detto? Io ti ho detto il diodo, che probabilmente è lo Zener, che può essere anche un diodo normale, ti ho detto che può essere un condensatore e ti ho detto che può essere una resistenza. Come vedi, non ti ho detto, tu stesso me lo stai dicendo, ma le stesse cose ti ho detto prima io, per cui io ripeto, non sono un professore, però dopo aver fatto il lavoro che facevo prima, quando ero giovane, rientravo dal cantiere e mi mettevo di fianco al radiotecnico e tante cose le ho apprese, e ancora oggi, nonostante che siano passati 55-60 anni, me le ricordo sempre, non è che non me ne ricordo, anche perché è stata sempre la mia passione, l'elettronica è stata sempre la mia passione, non l'ho mai potuto esercitare come professione perché poi ci sono stati dei problemi a riguardo di dove lavoravo, la ditta aveva fallito, mio padre che era capo operaio in un'azienda mi ha detto io vieni con me quando sei a trovare lavoro, se no io avrei continuato sempre con l'elettricità o qua, non ci piove, guarda, però non mi sono pentito, anzi devo dire che mi sono trovato anche meglio poi nel passare a fare il falegname, imparare e diventare falegname, così via, capito? Gappa, e vabbè, tu la tua esperienza te l'hai fatta, io sono profano in materia, qualche cosettina me la faccio, giusto per, però quando parliamo di componenti, parliamo di cose serie, non ci puoi mettere le mani se non sei preparato, e soprattutto se non hai la prefettura adatta per darti una mano, perché insomma, capito, tutto lì. No, io ho portato a Vittorio, ho pagato, me l'ha riparato, e sta funzionando perfettamente, ho regolato dall'interno a 13,8, ed è lì nella linea sua, capito, tutto qua, però è un rischio, infatti sto pensando che sia successa la stessa cosa nel passaggio dell'alimentazione, che sia successa la stessa cosa alla radio, capito? Che c'è o una resistenza o un diodo o un condensatore in perdita, non penso che sia qualche integrato, e quindi c'è un assorbimento allucinante. Beh, certo, se salta la resistenza, perché la resistenza di solito è utilizzata come caduta di tensione, no? Dai vari stadi, dice in questo stadio deve arrivare, che so io, 18 volt, nello stadio susseguente deve arrivare, che so io, 15 volt, nell'altro ancora ne devono arrivare 13 e così via, no? E ogni resistenza ha il suo compito, evidentemente quello più interessante è arrivato che magari è saltata il valore della resistenza stessa, nonostante che stia sempre funzionando, e allora a quel punto lì è da verificare, da vedere, è così, Ocla, e vabbè, comunque sono discorsi che avremmo dovuto fare molto spesso in baracchino noi, ma non ne facciamo mai di questi discorsi improntati sull'elettronica, perché c'è sempre qualcuno che magari ne sa più di me e ci dà un'informazione, e c'è l'altro magari che ne sa ancora di più e anche lui che gli ha dato già una prima informazione e ne apprende un'altra e così via, invece noi non ne parliamo mai di elettronica, cosa che mi sarebbe piaciuto moltissimo a me, la verità. Vabbè, dai, riprendi. Lo so, a me piace tantissimo, molto. Però ti ripeto, se non hai le basi, se non hai qualcuno che ti insegna, che ti prende per mano, e che ti dice che la possibilità può essere questa, può essere quest'altra, ti spiega le cose, no, chiaro che non riesci così, perché ripeto, parlare di elettronica devi essere consapevole anche di quello che stai dicendo, perché non è che puoi dire coglionate, capito? Quindi io non mi pronuncio neanche, perché non lo so, non lo so, avete chiamato, dai, mi sono, ne ho approfittato, potremmo una sciacquata. Sì, avanti Luca, avanti. E dico, siccome mi avete chiamato, no? non mi sentivo perché ero in bagno. E niente, dai, io sono qua. L'elettronica è l'elettronica, io la amo. L'elettronica è una bellissima cosa. Naturalmente uno deve avere un po' di passione, un po' di entusiasmo, soprattutto nell'applicarsi. Io ripeto, da ragazzino sono sempre stato con i libri in mano e soprattutto con le riviste. Le riviste sembra così, ma dalle riviste ho imparato tantissime cose, tante, ma parlo addirittura di quando avevo 13-14 anni, ti puoi immaginare. E fino a qualche anno fa avevo una montagna, proprio una montagna di riviste, psicoelettronica, elettronica pratica, tutto questo tipo di riviste, no, che parlavano di tutto. E devo dire, tante cose le ho tolte, anche ad esempio questo baracchino che ho qui davanti, anche quello era 23 canali e l'ho fatto diventare a 37, ed è lo schermo elettrico che l'avrei tolto, da uno di questi elettronica, mi sembra che fosse, o elettronica pratica, se non ricordo bene, comunque uno di quelli. E ho visto la modifica, gli ho messo una quartiera supplementare e l'ho fatta diventare a 37 canali, ti puoi immaginare. Ma ne ho fatto tanti, addirittura, poi non parliamo dei ricevitori, quanto ne ho fatti, di tutti i generi, addirittura a reazione, alla vice era una vergogna, ma cioè una vergogna nel senso che era un tipo di ricevitore che allo stesso tempo mandava tante di quelle sfuglie che tu non hai idea. Tutto quartieri spegneva, qualsiasi ricevitore poi aveva interferenze, ma caridai, ma erano tutte pratiche che io ho fatto. Parlo per vedere a voi di microfoni la giubbata a centinaia, ma comunque va bene così. Ormai abbiamo la certa età, non c'è più la pazienza, non c'è più nemmeno la vista di prima per poter vedere i contatti, saldature, balle varie, e va bene così. Avanti Claudio. Sì, giù, purtroppo è così. No, vabbè, io già, dai, non è una cosa molto, molto difficile, devi studiarla, però dai, nel mio piccolo già me l'ho da fare, dai. Ho fatto qualche errore, più di uno, da anni, qualche dannetto l'ho fatto, Però sai, con l'esperienza, cioè quando fai un danno impari, sai, poi dove mettere le mani, in più, guarda, io l'unica cosa che posso usare bene è il tester, sono sincero. Però dai, piano piano magari su internet mi aiuta molto, diciamo che è stato il mio maestro, in questi anni. Beh, sicuramente su internet c'è tanta cosa, tanto materiale da vedere, sicuramente c'è tanto, io non è che lo seguo molto perché, ripeto, non so appunto usare bene il computer, bene, non lo so usare proprio, qualche cosettina così e niente di più. Perciò infatti adesso ho un nuovo PMR che vorrebbe messo sotto il computer per memorizzare certe frequenze eccetera, e dunque non lo so, è inutile che mi metto lì, ma non fa niente, questo è un altro discorso. E appunto ti stavo dicendo, però sai cos'è, ci vuole tanta passione, perché se uno non ha passione non riesce mai ad applicarsi. E piano piano, poi soldi, poi non ne parliamo, quanto ne ho spese, quante resistenze, quanti condensatori, quante cose che ho comprato, transistor e balle varie. E certo, anch'io ne ho bruciato, tante ne ho bruciate anch'io, prima di sapere certe cose, facevo e rovinavo Luca, però poi con gli anni, col tempo ci sono anche arrivato, non è che non ci sono arrivato. Ripeto, non sono un radiotecnico, non sono uno molto esperto, però le mie cosettine per me personalmente me le faccio, non le faccio a nessun altro, non mi permetto, perché non è giusto, perché io quello che faccio può andare bene, può non andare bene, ma le cose mie, se me le rovino, sono mie e basta, non devo tenere conto a nessuno. Avanti Claudio. Ci confermo, come è capitato a me, mi hanno farsi il danno, no? Perché è chiaro che lo fai per abitudine, lo fai per conoscenza, perché cose sono cazzate. C'ho tutto scritto, so dove metterlo mai, lo faccio. Però se poi c'è un errore, così, una coincidenza, che vorrei, poi non funziona, la colpa è la mia, capito? Quindi non la faccio a nessuno, tutto qua, è così. Per fare le cose bisogna essere tecnico, avere capacità, manualità e conoscenza dell'elettronica, non è che uno prende, fa e tocca, non funziona così. Beh, infatti è così che deve essere, ci mancherebbe altro, anche perché non è giusto togliere il lavoro a chi lo esercita come professione, si sa, non sarebbe giusto. Se poi una cosa io non sono certo, nemmeno per me stesso, non ci metto le mani, sia ben chiaro. Se una cosa che io ritengo che di non essere all'altezza, anche se per me stesso, non ci metto le mani, nella maniera più assoluta, perché so che potrei fare danno, ci mancherebbe. Mi rivolgo a chi ne sa più di me, già lo grido, ma è normale, no? È così che bisogna ragionare, non è che uno si mette a pasticciare così, caspita, tutto fa brodo, no, non è così, no, tutto fa brodo. Uno deve fare lavori in base alla sua competenza, però poi, ripeto, qualche errore si può anche fare, non è che non si possa fare, però se lo fai per te stesso non succede niente, non devi dare conto a nessuno, mentre invece se lo fai per gli altri, insomma, hai fatto un danno e non va bene, a parte il fatto che stai sottraendo il lavoro a una persona che magari lo fa per vivere, per guadagnare, e non è giusto, io l'ho preso in questo modo. Avanti Luca. Sì, allora, mi ha dato il microfono, io vado a cenare, ci siete dopo, perché io tra un po' vado a prendere il mezzo per salire a casa. Ci siete dopo, se no ritenetevi salutati, da, a dopo, ciao ciao, riprendi giù. Ok, ciao Luca, alle prossime allora, dai, buona cena e ci sentiamo eventualmente domani. Oggi ne abbiamo 28, domani 29, praticamente siamo già alla fine del mese e fra un po' sarà anno nuovo, tutto bene. Ciao Luca, buona cena, buon divertimento, avanti qua. Ciao, ciao Gabriele, alle prossime, grazie alle due chiacchiere. Ci aggiorniamo, vedi, guarda l'orario che sono, anch'io ti devo lasciare, che vado a sistemarmi il cane, che non sta piovendo, se no se poi piove è un bel casino, ok? Beh, se ci sei a dopo, altrimenti ritieniti salutato e niente, grazie delle due chiacchiere. Grazie a te Claudio, ci sentiamo domani, dai. È stato un piacere fare quattro chiacchiere, soprattutto aver sollevato un argomento che a me sta molto, ma molto a cuore per la passione che ho. Ok, ciao qua, alle prossime. Buona cena anche a te, dai. E buona passeggiata con Filippo. Ciao, ciao. Ciao Giulio, ciao, grazie. Vabbè, Bobolino.